Con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed eccoci finalmente insieme come tutti i sabati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, per commentare con tranquillità, insomma, secondo un po' dei tempi che a volte corrono meno, i fatti di questa settimana. Come sempre il sabato dalle 14 alle 15, Roberta Giordano con voi. Quali sono le notizie che in questi giorni vi hanno particolarmente colpito, sulle quali vorreste tornare con libertà a dire la vostra, a commentarle? Naturalmente c'è sempre in primissimo piano la politica. Ci sono stati giorni caldi dello scontro soprattutto sulla giustizia, che è il tema bollentissimo della nostra politica, e poi sembra che finalmente sul finire della settimana il governo, il Consiglio dei Ministri, sia riuscito a raggiungere dei risultati, a varare per esempio il decreto sull'IMU, che dovrebbe sospendere fino almeno a settembre, quindi non si dovrebbe pagare la prima rata di giugno, e poi anche il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e il taglio ai doppi stipendi dei ministri parlamentari, anche se ritengo così, modestamente, diciamo, che è una cosa talmente logica che doveva essere fatta già moltissimo tempo fa. Comunque, insomma, meglio tardi che mai. Poi si torna a parlare della trattativa Stato-mafia, i PM che chiamano a deporre Napolitano, 180, altri 180 testimoni, tra questi ci sono anche Grasso, l'attuale presidente del Senato, e l'ex presidente della Repubblica Ciampi. Poi la Cassazione sui temi politici boccia il Porcellum, anche questa è una cosa abbastanza palese, insomma, che era una legge elettorale malfatta, e adesso si penserà, insomma, a cercare di cambiarla. Vedremo se la maggioranza formata da PDL e PD si deciderà in tempi abbastanza ristretti a cambiarla. Forse si torna al Mattarellum, però poi si devono mettere d'accordo su premi di maggioranza e su una serie di altre cose. Il PDL per esempio dice che prima ci devono essere tutte le altre riforme istituzionali. Poi ieri, sapete, era anche il giorno mondiale contro l'omofobia. Napolitano ha detto: sono assolutamente inaccettabili e deprecabili gli attacchi nei confronti degli omosessuali, anche se leggevo che in Italia, adesso non mi ricordo se era Corriere o Repubblica poco fa, sulla versione online, che diceva 1 su 4 in Italia ha subito aggressioni. E, fra l'altro, proprio ieri la Presidente della Camera Boldrini ha detto che bisogna arrivare subito, anche la Ministra delle Pari Opportunità Josefa Idem, alle unioni civili, e leggevo però un attacco di Avvenire, l'ho visto poco fa, il giornale dei Vescovi, che dice se la prende con la Presidente della Camera Boldrini per le sue affermazioni sulle unioni gay fatte ieri in occasione appunto della giornata contro l'omofobia, accusandola di ricorrere a stereotipi infondati e di violare la sua veste super partes, come se essere per i diritti civili fosse non essere super partes. Poi ne parleremo anche di questo argomento, visto che è così di attualità. 800 24 00 24. Poi fra le altre cose volevo segnalarvi anche che si torna a parlare dello scandalo G8, perché sono stati sequestrati a Balducci conti, auto e ville per 12 milioni di euro. Balducci è l'ex presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ex gentiluomo del Papa, imputato di associazione a delinquere unitamente all'imprenditore Diego Anemone, vi ricordate, accusato di corruzione in relazione all'affidamento di appalti pubblici per i mondiali di nuoto 2009, per il G8, il famoso G8 alla Madonna D'Alena, celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Insomma, in Italia ovunque si scavi ne succede di tutti i colori. Poi questa settimana sono stati particolarmente sotto i riflettori i processi in cui è coinvolto Berlusconi. Sappiamo del fatto terribile di cronaca del picconatore di Milano, che sono morti tutti e tre le persone che erano state gravemente ferite. Mi sembra con questo di avervi detto almeno una gran parte dei fatti che si sono mossi in questi giorni. Poi se ne avete qualcuno in particolare, ieri, ecco, ho fatto anche uno speciale ieri sera sul femminicidio. Anche questa settimana, naturalmente, donne morte, una colpita con l'ascia, l'altra con un sacchetto in testa da un uomo a Palermo. Ieri a Messina un'altra donna è stata coltellata dal compagno per questo eccesso di gelosia, così si dice, e sembra che forse potrebbe cavarsela. Insomma, vediamo che i tempi non cambiano, mentre è vero anche questa settimana che per certi versi non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni. stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Devo dirvi che senza aver pensato a metafore eccezionali su come le cose cambiano, mi arrendo questa settimana, devo dire molto banalmente, al meteo. Perché qui al nord stiamo cominciando, centro nord in realtà, a preoccuparci. Qualcuno si è rivolto anche a chi l'ha visto, chi ha visto la primavera. Tra pochi giorni dovremo passare, almeno così per quanto riguarda il calendario, all'estate, però la primavera non si è vista. Questo dimostra ancora una volta, e proprio diciamo letteralmente, che non ci sono più le mezze stagioni. No, la mezza stagione qui non si è vista. Se qualcuno dal sud poi vuole raccontarci brevemente le condizioni meteo, se gli hanno assicurato invece che la mezza stagione magari c'è per mezza Italia, non per il resto. Poi sentiamo 800 24 00 24, signore e signori, ragazze e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è il momento di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Mario Giordano. Buongiorno. Buongiorno Mario. Buongiorno. Ci ridiciamo quell'altra volta, qualcuno mi ha chiesto anche su Facebook, la pagina Facebook, non ci sono più le mezze stagioni, ma è tuo parente, tuo non fratello? Siamo tuo... parenti. Non siamo parenti, non siamo parenti, abbiamo lo stesso cognome, un cognome abbastanza diffuso in Italia, no Mario? Assolutamente sì. Mario Giordano, direttore di TGCom 24, che ha scritto uno dei suoi libri che io li chiamo Strizzabile, con torci fegato, cioè si è specializzato, hai un titolo un po' grillesco, è tutti a casa, appunto, esclamativo, perché di casa si parla, ma tutti a casa mi suona molto grillesco. Se ti sei un po' convertito, Mario Giordano? Ma io credo che, insomma, il lato della denuncia sia comune a tanti, prima, dopo Grillo, quindi in quel lato lì non c'è nulla, come dire, da prendere distanze, nel senso che è chiaro che l'interpretazione della rabbia degli italiani nei confronti di tutta una serie di privilegi e di ingiustizie non credo che abbia marchi di fabbrica. Anche se diciamo proprio la frase, l'urlo tutti a casa, è proprio sì. Di Grillo, della sua campagna elettorale, sì, no? Sì. È chiaro che qua io faccio un gioco di parole, perché certo. È tutti a casa proprio perché il tema è proprio quello della casa, è proprio quello dell'immobile, delle quattro mura, in un libro che parla del mattone, ecco, anche se spero che non sia un mattone, anzi ho cercato di non fare un mattone, ma parla proprio del mattone in senso fisico. Tra l'altro, leggo dalla quarta di copertina, i vari quelli che, no? Anche guardando l'indice, cioè sono categorie infinite, quelli che comprano da un ente pubblico una casa da 210 metri quadrati al Colosseo e la pagano come un bilocale in periferia, quelli che comprano da un ente pubblico una casa di 127 metri quadrati in Piazza Navona e la pagano meno di un box out, delle cose vergognose, quelli che comprano al mattino e rivendono al pomeriggio e nella compravendita ci guadagnano in un giorno 1,5 milioni di euro. Però io penso, caro Mario Giordano, che forse qualcosa è da rivedere nel tuo libro, in questo senso, perché l'altro ieri Gianfranco Rotondi del PDL ha detto in una trasmissione che lui appartiene agli italiani meno abbienti. Allora, qui c'è qualcosa che non va o nel tuo libro o in quello che ha detto Gianfranco Rotondi, decidiamo dove. No, ma sono ripetute le frasi di questo genere, più volte i protagonisti dei privilegi sostengono di essere meno privilegiati, e questo credo che questa sia in realtà, al di là del fatto che si può anche molto ironizzare giustamente su questa cosa, però credo che sia un problema molto serio, perché fa parte di quella sordità di queste persone, cioè quelle che non capiscono e a volte ho l'impressione che non vogliano capire che o si provvede rapidamente a cambiare questo sistema di ingiustizie e di privilegi contro cui secondo me è giusto continuare ad alzare la voce denunciando con, come dire, nei dettagli, con tutti i nomi, i cognomi, le cifre, le leggi indicate che secondo me favoriscono e garantiscono questi privilegi, però questi non ne vogliono sapere. Ecco, ti chiedo, scusa se interrompo Mario, ma ti sembra che, cioè, dopo tanta indignazione, dopo tanta repulsione anticasta, antipolitica, eccetera, eccetera, quelle cose che sono successe, un Gianfranco Rotondi possa dire, adesso non ho qui il file, ma l'ho sentito due sere fa, che possa dire io appartengo agli italiani meno abbienti, un parlamentare con lo stipendio che prende, con tutti i privilegi, le garanzie, le cose, come può ancora avere il coraggio di dire una cosa del genere? C'è anche una certa sfrontatezza, spudoratezza, sì, direi. Spudorati, infatti il mio libro precedente si chiamava, infatti, non a caso Spudorati, ecco. Proprio perché credo che siano faccia parte proprio della categoria degli spudorati, che hanno i privilegi, non si rendono conto, ma soprattutto, ripeto, è il fatto che hanno perso completamente il rapporto con il paese. Quello che a me impressiona di questa spudoratezza, che deriva dal fatto che non si rendono conto, ci saranno mille motivi, mille spiegazioni, le leggi elettorali, tutto quello che vogliamo, ma non rappresentano più, cioè i parlamentari, l'origine di quella serie di privilegi che sono garantiti ai parlamentari erano perché questi erano i rappresentanti del popolo e quindi il popolo voleva che fossero, no, protetti e garantiti da, e invece questi hanno preso solo i privilegi, hanno perso completamente il rapporto con la gente, si è completamente staccato, non si rendono conto, questa è la grande spudoratezza, perché noi abbiamo bisogno, tante volte siamo indicati come i nemici della politica, ma in realtà i nemici della politica sono loro quando si comportano così, perché noi abbiamo bisogno. Ah sì sì, fanno tutto da sé, non c'è bisogno di infierire. Ma noi avremmo bisogno della politica nel senso buono, cioè, che è rappresentare le esigenze e quello che gli italiani, in questo caso gli elettori, li delegano a fare, no? Certo. Questa frase che tu hai citato è uno degli emblemi della sordità completa, della cecità e della sordità di una classe dirigente nei confronti degli italiani, che sono molto meglio di quelli di chi si rappresenta. Abbiamo tanti difetti anche noi, siamo insomma popolo, però io mi accorgo anche nel raccontare molti degli episodi di cronaca che raccontiamo anche in questi giorni, che gli italiani hanno una forza e dei valori, tutti gli italiani che ogni giorno tirano avanti questo paese, molto migliore, che meriterebbero forse di essere rappresentati un po' meglio. Dicene giusto 3-4 tra quelle che magari non ci possiamo aspettare, parti politici e questa frase spudoratissima di 2 giorni fa di Rotondi, Mario Giordano, proprio altre 3-4 categorie che non ci si aspetta magari. Poi ci sono per esempio tutti gli insospettabili, diciamo, dal presidente della Corte dei Conti Gian Paolino, che ha comprato una di queste case con prezzi di favore. Abbiamo citato il presidente di Equitalia Befera, abbiamo degli alti burocrati, abbiamo ovviamente i giornalisti, perché anche i giornalisti fanno parte della categoria, quindi insomma ci sono alcuni, è una buona parte, diciamo. Patroni Griffi, ex magistrato e adesso sottosegretario alla presidenza del Consiglio, per l'appunto ha comprato per esempio 109 metri quadrati in zona Colosseo per 177 mila euro dall'INPS. Luigi Giampaolino, presidente della Corte dei Conti, ha comprato 6 vani a Prati per 413 mila euro, con valore alla metà del valore attuale, fra l'altro dalla casa, da una casa di riposo che ha una gestione molto oscura dei suoi appartamenti. Va bene, basta farci male per il momento, un attimo. Senti, poi ti dicevo, adesso allora ti chiedo se siamo rappresentati degnamente, ma prima cominciamo a far passare qualche telefonata, per esempio Luigi. Bonanni, il presidente della CISL, 200 mila euro, sindacalista, che chiede giustamente, ha comprato per 200 mila euro una ricca e abbondante casa, ecco, tanto per dire. Tanto per alcuni dei tantissimi esempi che ci sono in questo libro. Luigi da Padova. Buongiorno. Buongiorno Luigi. Vorrei cambiare argomento. Sì. Vorrei dire qualcosa sulla giornata contro l'omofobia che si è svolta ieri. Ho apprezzato molto le parole del Presidente della Repubblica. E sono rimasto invece deluso dal fatto che Papa Francesco non abbia detto nulla al riguardo. Io faccio parte di un gruppo, si chiama Gruppo Emanuele, che qui a Padova riunisce le persone omosessuali credenti. Che sono tantissime. Sì, infatti. Normale. Sono tantissimi gruppi sia qui in Italia che anche in Europa e anche nelle Americhe, e ieri abbiamo celebrato una veglia per le vittime dell'omofobia qui a Padova in concomitanza con tante altre persone, tante altre veglie che si sono svolte. Mi sembra Italia, che Luigi, scusami se ti interrompo, rimane, che una veglia ogni tanto la fanno, se non sbaglio, anche in Emilia Romagna, proprio in una chiesa, in accordo anche con il sacerdote che gestisce il Bertini, adesso non mi ricordo. Comunque noi l'abbiamo svolta, cioè è stata celebrata in una chiesa cattolica e abbiamo avuto la presenza di una pastora valdese e di un pastore luterano. Ecco, questi sono protestanti e luterano, però in questa dell'Emilia Romagna, se non ricordo quale città, è proprio prete cattolico. Comunque tanti, un gruppo c'è a Bologna, un gruppo è a Parma, un gruppo è a Rimini, per cui siamo veramente tanti, siamo riuniti con un forum, tra l'altro per chi vuole avere informazione può anche collegarsi sul sito jonat.org e lì vede qual è il fermento. Luigi, è sicuramente stavo un... dicendo questo solo per il fatto che, insomma, nonostante quelle che sono le affermazioni delle gerarchie, c'è un fermento tra gli omosessuali italiani, e questo può sembrare una contraddizione, che sono comunque credenti, e comunque tanti altri che sono anche eterosessuali, che, come dire, ci sostengono in questo cammino. Luigi, dimmi solo una cosa, siccome poi anche su questo si sono espressi le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sai che c'è stata l'estensione alla Camera dei Deputati dell'assistenza sanitaria anche ai partner gay, no? Nel senso che ci sono dei parlamentari che hanno... Sì, ho sentito, certo, ecco. Scalfarotto aveva ecco, detto qualcosa a proposito. Poi leggerò anche i commenti sulla pagina Facebook. Tu che cosa ne pensi? Qualcuno ha parlato appunto di ulteriore privilegio, qualcun altro ha detto, ma forse è un modo per iniziare. No, è cosa buona e giusta, però effettivamente sentire, sono d'accordo da un certo punto di vista con i grillini, dire insomma non è giusto, però che questa cosa che dovrebbe essere estesa a tutta la popolazione sia invece una cosa che riguarda solamente tre persone all'interno del Parlamento e quindi all'interno dell'Italia. Luigi, questo è veramente estremamente chiarissimo il concetto, Luigi. Adesso vorrei sapere, e ti ringrazio, vorrei sapere Mario Giordano, prima di ritornare sulla domanda di prima, che ne pensi, Mario? Penso quest'ultima cosa che tu hai detto, cioè io trovo che il Parlamento parta a discutere di una questione così delicata, che come abbiamo sentito anche dall'ascoltatore tocca da vicino le sensibilità delle persone, dai diritti dei parlamentari, io lo trovo un altro punto, diciamo, di chiusura, di sordità da parte del Parlamento, perché il tema dei diritti va prima affrontato e posto in termini generali e poi affrontato per la cassa di assistenza. Anche qui poi una cassa di assistenza su cui c'è molto da dire, perché è vero che se la pagano loro con 520, mi pare, euro al mese, ma loro ovviamente con i soldi pagati dal nostro stipendio, sempre per rotondi, per quelli dei meno abbienti, no? Ma hanno terme, dieta, tutto pagato grazie a questa cassa integrativa, che è una cassa integrativa già molto generosa. Allora, partire una discussione così importante che riguarda l'estensione dei diritti dai parlamentari, a me è sembrato un altro gesto di casta, di chiusura e non di apertura nei confronti del paese. Anche se io dico, Mario, che anch'io all'inizio l'ho vista così, poi ho detto, però forse proprio perché parte da lì, a questo punto poi deve riguardare tutti, può essere una rivendicazione generale, anche perché se fosse un privilegio quella dell'assistenza sanitaria che hanno, allora prima di tutto, se vogliamo combatterlo, lo si deve combattere con quello che già c'era prima per gli eterosessuali. Non si vede perché questa cosa debba far indignare nel momento in cui si estende alle coppie gay. Però ti voglio leggere velocemente alle ascoltatrici e ascoltatori qualche commento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni proprio su questo tema. Luciano dice, diciamo in modo un po' forte, ecco, loro sono gay, gli altri sono froci, mi pare giusto, quindi la discriminazione la descrive in questo modo. Antonio dice, diversità nella diversità, la Camera dovrebbe impegnarsi a estendere tale diritto a tutti i cittadini, i parlamentari non sono diversi o migliori degli altri. William scrive, se questo è un segnale che indica la volontà di estendere e riconoscere tutti i diritti alle coppie di fatto, allora ben venga, e così la penso un po' anch'io, altrimenti dice un ennesimo privilegio della cosiddetta casta. Maria Donata, tutto a posto, peccato che come al solito la casta fa la casta. Alessandro scrive, in teoria lo Stato italiano la garantisce a tutti i cittadini garantendo le parità di accesso, come no, loro sono più pari di noi altri poveri scemi, manco parlassimo del congresso degli Stati Uniti d'America dove l'assistenza sanitaria è a pagamento, ma stessero attenti, quelli che si uccidono per disperazione stanno finendo e arrivano quelli che sparano per disperazione, insomma. Barbara, penso che sia l'ennesimo privilegio. Fiorenza Maria dice, era proprio una priorità, esistono decisioni in Parlamento che vengono prese velocemente senza la minima discussione. Ma sono relative solo ai privilegi personali di pochi. Sergio dice due pesi due misure, Rosanna invece scrive penso che non è mai troppo tardi per diventare un paese civile, ora mi aspetto che estendano il provvedimento anche ai comuni mortali. Enrica, l'assistenza sanitaria per il parlamentare integrativa, poiché nelle coppie, nelle normali coppie sposate o meno, uomo o meno, l'assistenza sanitaria è garantita a tutti i cittadini, quindi se i suddetti non se la pagano e se come al solito paga la comunità, allora è il solito vergognoso privilegio, anche se Mario Giordano ci spiegava insomma come stanno le cose. Paolo, patti chiari, amicizia lunga, io penso che le regole debbano valere per tutti, se valgono per la casta dovrebbero valere per tutti, altrimenti ci arrabbiamo. Angela, loro sono degli dei, quindi possono permettersi tutto. Ecco, qui abbiamo visto un po' che tipo di reazione hanno avuto ascoltatrici e ascoltatori. Sentirei anche Daniela da Verona all'800240024. Daniela. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Niente, allora io volevo innanzitutto precisare una cosa e parlare appunto della giornata che si è svolta ieri contro l'omofobia. Pochissimi media hanno abbinato alla parola omofobia anche transfobia. Parlo di questo perché io all'età di 55 anni mi sono messa insieme ad altre 8 ragazze ed un ragazzo a fare uno sportello di accoglienza trans qui nel Veneto, a Verona, perché le persone transessuali, ci siamo resi conto, sono discriminate ancora più degli omosessuali. Però se ne parla sempre pochissimo. Le persone transessuali non sono Vladimir Luxuria soltanto o la modella famosa figlia di un calciatore, eccetera. Le persone transessuali sono mescolate in mezzo a noi, ma sono discriminate perché sono visibili, più visibili degli omosessuali. Un omosessuale può, tra virgolette, nascondersi in ufficio, in banca, ovunque. La persona transessuale non può, perché fisicamente può avere un aspetto più o meno chiamiamolo femminile, o in contrasto con i canoni che uno ha in mente, esatto. No. Quindi discriminazione non soltanto. È stata l'unica che ha parlato di transfobia, è stata il presidente della Camera, appunto Boldrini, la ringrazio per questo, la ringraziamo per questo, di questa sensibilità. Sì, sai, siamo un paese già molto indietro sull'omofobia, quindi diventa ancora un passo in più probabilmente questo della transfobia, ma hai ragione. Lo so, ma vedi un'ultima cosa, noi essendo aperti da un anno e mezzo e facendo tutto volontariato a spese nostre e con i nostri tempi eccetera, abbiamo avuto genitori, figli e figlie che sono veramente disperati, perché non sanno veramente dove rivolgersi, cosa fare per appunto riuscire a capire cos'è questa identità di genere, eccetera. Ripeto, si parlava della giornata contro l'omofobia, non voglio adesso entrare troppo nello specifico, però faccio solo un piccolo, come si dice, un piccolo numero. Quest'anno le persone uccise per transfobia sono state già 17. Cioè, ne sapeva qualcosa qualche ascoltatore? Credo di no. Questo è, non voglio prendere troppo tempo anche agli altri, ecco, volevo solo specificare. Grazie Daniela, sei stata chiarissima. Prima della prossima pausa, che è proprio tra un minuto, Mario Giordano, rimane sempre sospesa la nostra domanda se ritieni che i nostri rappresentanti politici rappresentino questo governo degnamente. Vuoi commentare prima questi interventi? Due cose. Uno, sui trans, sì, sicuramente è un problema. Non mi sembra che sia una cosa di cui si parla poco, ecco, perché anche attraverso personaggi illustri se ne è parlato e sono stati molto rappresentati in televisione. Forse non tantissimissimo, diciamo, però insomma è un passo ulteriore. Sì, forse è necessario, però ecco. Tra l'altro si tratta di vedere il bicchiere, mezzo, classico bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Se la cosa è il primo passo, ha un senso, altrimenti è un privilegio di casta. La cosa che mi lascia un po' perplessa e mi fa propendere per la cosa negativa è che, conoscendo bene questo Parlamento, questa norma è passata perché nell'ufficio di presidenza per estendere il diritto bastava passare per l'ufficio di presidenza e quindi si fa rapidamente. Se questa stessa norma dei diritti passa attraverso il Parlamento, secondo me non passerà mai, e quindi rimarremo, sono quasi certo, con questa cosa, con ancora una differenza fra i parlamentari e il resto degli italiani ad acuire, comunque la si pensi ad acuire le differenze. Prima di riprendere la nostra chiacchierata volevo darvi due notizie, una che è appena arrivata con le agenzie. Raha Muharrak, 25 anni, entra nella storia, è la prima donna saudita, pensate, per una donna dei paesi arabi così insomma per quanto riguarda le donne così discriminatori, è la più giovane araba ad aver scalato la cima dell'Everest, lo riferisce la BBC. Poi un'altra notizia tra quelle importanti di questa settimana, mi ero dimenticata tra tutte le cose che avevo in testa di darvi, è che è morto il dittatore argentino Videla, l'Hitler praticamente dell'Argentina, che ha guidato la giunta militare in Argentina tra il 76 e il 1981 e che ha veramente stato accusato di genocidio, di crimini contro l'umanità, ha fatto torturare, uccidere 30.000 persone, più c'è tutta anche la storia del rapimento dei bambini, dei neonati strappati una volta che hanno partorito alle donne imprigionate, torturate, uccise dopo, e poi dati arbitrariamente a generali e militari della dittatura argentina. Quindi ieri la prima TV di Buenos Aires ha detto: è deceduto Videla, responsabile del genocidio. E le famose nonne di Plaza de Mayo, che è la piazza dove continua a girare un giorno in particolare alla settimana per ricordare tutti i desaparecidos, le persone anche di cui ancora dopo tanti anni non si sa più nulla, hanno detto: un essere spregevole ha lasciato questo mondo, come dare torto loro. Allora, Mario Giordano, quindi questo governo ci rappresenta degnamente, questa unione PDL-PD? Ma adesso vi rispondo, posso fare una premessa, perché giustamente tu ci sono a sottolineare il mal di stomaco, no? E il mal di fegato, ma no, ma è vero. Però io dico anche che se qualche cosa, prima l'ascoltatore citava il libro sulle pensioni, ecco, il vitalizio per i parlamentari è stato abolito in futuro, la legge è profondamente cambiata, alcune ingiustizie sono cambiate, tu hai citato all'inizio l'abolizione di una cosa che sembrava anche a me assurda, il doppio stipendio, però se forse non avessimo scritto, certo, detto, fatto tante trasmissioni così, no, ma il mio era ironico, no, lo dico perché ogni tanto anch'io mi sento un po' negli incontri così, la gente dice: ma non ne possiamo più, siamo stanchi. Io credo che invece ringrazio chi scrive questi libri, perché rendono le persone consapevoli, rassegnarsi a queste cose è vero che è sempre poco, è sempre lento, è di una fatica, guarda, è una fatica immensa, si tratta di lotte, si tratta di esporsi anche a rischi, denunce, tribunali, per averne poi sempre vinto, perché sono sempre dati verificati e fondati, ma per evitare che la gente poi gridi in piazza genericamente, secondo me invece la denuncia precisa è chiedere, bravo, dei costanti cambiamenti precisi, citando i fatti, citando le cose che hanno cambiato, secondo me è l'unico antidoto che abbiamo al montare della rabbia della gente. No, è opera assolutamente meritoria, Mario Giordano, su questo non c'è nessun... No, ma non è che volevo i complimenti, volevo precisare il perché il mal di fegato ogni tanto, ahimè, è secondo me indispensabile. No, bisogna essere consapevoli, non si può mettere la testa sotto terra come gli struzzi, esatto, non si risolve niente. Sentiamo il numero verde prima del collegamento con Marte, al numero verde 800240024, Franco da Torino? Sì, sono io, sono Franco. Sei proprio tu, Franco, benissimo. Allora, ascolta, sì, intanto vorrei ringraziare l'invitato Mario Giordano, perché lo ritengo uno dei pochi che si salvano come giornalista. Uno per dire che per quanto riguarda la nostra classe di operai c'è sempre da fare, specialmente per quanto riguarda la casta. Io a volte mi domando e mi chiedo una cosa, cioè ci sono dei personaggi politici, per dire, che una vita hanno fatto riforme contro riforme per quanto riguarda le pensioni, però le loro pensioni non se li toccano per niente. Io sono uno di quelli, per dire, che sono 39 anni che lavoro, probabilmente dovrò andare in pensione quando ne avrò 43 di contributi, per dire, qualcosa del genere. Cioè dovrei andare in pensione con 900 oppure 1000 euro, per dire, al mese, dopo 43 anni, e questi signori qua, per dire, i loro privilegi non se li toccano, ma è una cosa vergognosa. Cioè, io parlavo, per dire, con un francese, io lavoro in una multinazionale tedesca, ed è arrivato un camionista, per dire, francese, e più o meno si parlava dei problemi che sono in Francia e i problemi che abbiamo noi in Italia. Sai cosa mi diceva sto francese qua? Dice: noi abbiamo fatto una rivoluzione per riuscire a cambiare, per dire, la Francia. Voi fate delle rivolte e poi non fate più niente. Siete delle pecore. Avete dei caproni e voi siete delle pecore. Cioè non si può andare avanti così. Non possiamo pagare sempre noi. Poi addirittura, cioè, io ho letto, per dire, Sanguisuga. Sono rimasto a metà del libro perché onestamente viene mal di fegato e mal di stomaco. Noi siamo sempre qui a parlare ma non facciamo mai niente. Quindi per quello che io dico, che ci vorrebbero tanti quelle persone come Mario Giordano, ma tanti quelle persone, perché anche in mezzo ai giornalisti ci sono persone, per dire, che si sono arrangiati, cioè, ed è vergognoso. Franco, sei stato chiarissimo e credo di questo possa essere orgoglioso Mario Giordano. Tra l'altro, a proposito di pensione, vi dirò una cosa a fine trasmissione, se mi ricordo, che a volte io mi appunto delle robe e poi tra le corse finali mi dimentico. Della pensione, voglio dire una cosa. Mario, prima del collegamento con un altro pianeta, ci siamo detti allora se questo governo ci rappresenta degnamente a proposito, insomma, di... Ma è evidente che nasce un governo da una situazione di stallo elettorale, quindi è chiaro che non rappresenta, cioè è un'opera di mediazione ed era forse l'unica opera di mediazione possibile dopo il rifiuto dei grillini a fare l'accordo col PD, quindi è evidente a tutti quello che è successo ed è un'opera di uscita. Ha fatto uno sforzo di ringiovanimento nelle facce e adesso si tratta di dare risposte con rapidità e con celerità a quelle che sono le richieste. Sperare che un governo siffatto rappresenti il paese mi sembra davvero vast programma, come diceva il generale De Gaulle, un programma troppo vasto. Se riuscisse a fare quelle due o tre cose per riuscire almeno da uscire da quella situazione di stallo in cui eravamo precipitati, è già molto, e per questo bisogna guardarlo se non altro con un minimo di fiducia, di attesa, insomma. Tra poco Marco dalla provincia di Brescia, Francesco da Roma, mentre arrivano centinaia e centinaia di telefonate alla nostra Benedetta Acri, è il momento di collegarci con Marte. Riflessioni da Marte. Osservando come ogni settimana da quassù da Marte il pianeta Italia, si è visto quanto i governanti italici, congiunti in singolare unione, abbiano a cuore le stringenti priorità del paese e hanno dunque discusso di intercettazioni, di ineleggibilità, di senatori a vita e all'opposta opposizione di diarie. Sino che, seppure il Presidente del Consiglio avesse premesso che di miracoli non se ne facevano, dal cilindro del Consiglio dei Ministri è uscita un'IMU, la tassa più odiata del West, con un certo restyling, sospesa fra coloro che sono sospesi, nel senso aspettando di vedere come va a finire, sino a settembre. Ma ecco che una dichiarazione del vicepresidente del Consiglio impietrisce qualcuno per qualche istante. La prima palla del governo. Ma come? Il provvedimento che era atteso, specie da una certa parte, con tifo calcistico, era invece una palla del governo, e la prima, magari la prima di una lunga serie. Ma poi si comprende che era stato solo l'effetto acustico prodotto da un orecchio con grave pregiudizio ideologico e forse acustico, e si chiarisce il senso. La prima palla del governo è andata in gol. Insomma, cori da stadio, diciamo, contenti comunque anche dall'altra parte per il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, e c'è già chi dice che l'IMU è per la destra e la CIG per la sinistra. C'è però dove va peggio, In Venezuela, per esempio, tra chavisti e anti-chavisti si sta consumando la guerra della carta igienica. Il governo ha deciso che importerà 50 milioni di rotoli per contrastare gli oppositori, secondo cui ci sarebbe carenza del prodotto. A proposito, la carta igienica è di destra o di sinistra? Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? E ritorniamo subito con i piedi per terra e anche a sentire le vostre opinioni al numero verde 800 24 00 24. Francesco da Roma. Buongiorno. Buongiorno Francesco. Vorrei un attimo riflettere su quel povero ghanese fuori di testa che ha ucciso 3 persone. Povero ghanese. Povero pure lui, purtroppo, e poi soprattutto le persone, è tragica la cosa, ma soprattutto anche un po' poveri noi, perché se è vero che... è passato quasi un'ora prima che il 113 fosse avvertito. Cioè, siamo diventati un po' tutti così individualisti che, non lo so, a me è venuto a me è successo qualche anno fa, è successo a mia moglie di assistere per strada, io sto a Roma, a una sparatoria. Alla fine è morto pure un uomo, si è suicidato quello che aveva sparato, e ha preso paura, ma ha avuto molta paura mia moglie, aveva pure una bambina, la figlia, mia figlia insieme, però appena messosi al riparo, ha girato strada, ha telefonato alla polizia, e non penso abbia fatto niente di eccezionale, perché questo non è avvenuto così facilmente come dovrebbe avvenire. Rimani in linea, Francesco, e ti dico, per esempio, io nella mia vita sono intervenuta 3 volte fisicamente in momenti di aggressione, tentate aggressione a delle ragazze, ecco, quindi mi sono proprio messa in prima mano, non per dire che eroina, insomma, mi è venuto, a me viene veramente spontaneo, non riuscirei a fare diversamente, soprattutto quando si tratta di donne. Però in questo caso anche a me piacerebbe capire il perché, e probabilmente io credo che sia un misto di paura, quindi paura di intervenire, oddio, poi va peggio anche a me, meglio che mi allontani, non ci penso più, ciao, me ne vado. Una specie di coltivata indifferenza, cioè abituarsi a, ormai se ne vedono di tutti i colori, se ne sentono di tutti i colori, abituiamoci proprio a staccarci, anestetizzarci da queste cose. E poi probabilmente qualcuno dice anche poca fiducia nelle forze dell'ordine, la polizia, eccetera. Ma la paura a volte non è soltanto quella che ci vada di mezzo alla propria integrità psicofisica, ma anche che ci siano poi delle ritorsioni. Io faccio un caso, questo non per dire di giustificare, ma per dire per capire perché alcune persone hanno certe reazioni, a parte gli indifferenti, gli egoisti, individualisti. Quando c'è stato quel, vi ricordate, quel povero tassista a Milano che aveva investito per sbaglio un cane che si era buttato poi in mezzo alla strada perché non era il guinzaglio dei padroni, quando è uscito dalla macchina l'hanno riempito di botte, di calci ed è morto dopo un mese di coma e più. Un ragazzo che aveva visto la scena ha denunciato, dopodiché ci sono state una serie di ritorsioni nei suoi confronti, gli hanno bruciato la macchina, l'hanno perseguitato. Quindi uno dice: io denuncio, ma poi voglio essere anche tutelato e protetto. Quindi Mario, di questo terribile episodio di cronaca a Milano e anche delle polemiche, dei commenti che ci sono stati intorno a questa vicenda, che idea ti sei fatto? Ma io credo che ovviamente se qualcuno avesse chiamato prima era meglio, forse di poter evitare. Però credo anche che sia sbagliato tutto questo concentrare l'attenzione e polemizzare con chi non ha chiamato. Insomma, qui siamo di fronte a una persona che era arrivata in Italia, aveva già fatto una rivolta nel campo di accoglienza in Puglia e poi si aggirava indisturbato per il paese, era stato già fermato, identificato una volta, aveva fatto una domanda e tramite il meccanismo mai diventato famoso del ricorso contro l'espulsione si poteva girare liberamente per paese senza che nessuno sapesse cosa faceva, cioè come un fantasma. Hai ragione, ti chiedo perché. Perché questo permette il nostro sistema, le nostre leggi, è questo che io trovo scandaloso, che trovo inaccettabile, che se un cittadino normale di quelli che andava a passeggio col cane deve cambiare una piastrella in bagno, deve fare o aprire una finestrella, deve fare 20.000 pratiche burocratiche, la burocrazia che ci insegue, ogni giorno compiliamo papiri e poi permettiamo a una persona di questo genere, riconosciuta come pericolosa appena mette piede nel nostro paese, di agire indisturbato. Noi siamo andati in giro con le nostre telecamere a chiedere con la polizia ma dove viveva, dove abitava, cosa faceva, non lo sapeva nessuno, sapendo che era pericoloso. Allora questo mi sembra il problema, invece mi sembra che scaricare tutto sui come se uno si è preso la picconata, vi siete presi la picconata e non avete chiamato, sì, ovvio che era meglio se qualcuno avesse avvertito prima, però non mi sembra, cioè dovrei fare una distinzione, cioè quelle persone per bene che andavano a spasso col cane al mattino sono persone per bene che rispettavano le leggi, che hanno fatto e dovevano essere protetti, forse un po' meglio dobbiamo porci il problema che le leggi proteggano un po' meglio questi prima che addossare loro la colpa perché uno li ha presi a picconate. Adesso abbiamo il nostro appuntamento immancabile, naturalmente sentiamo qual è la sua opinione, Don Severino da Potenza. Don Severino. Ciao Roberta, saluto tutti. Ieri mattina, non so, il Papa avete sentito, ha detto, no, invitando i cristiani a non immischiarsi dei fatti altrui. È una bellissima notizia. Io vorrei che il Papa dicesse anche un'altra cosa, che invitasse i cristiani, ma soprattutto noi preti e vescovi, a non infilarsi nelle camere da letto altrui. Grazie. Ciao. E questo è Don Severino. Don Severino, però poi lo scomunicano. Ma invece adesso vorrei sentire su un termine di questa settimana che mi è rimasto in mente, Valeria Della Valle, la nostra linguista da Sapienza di Roma, e Quagliarello mi pare si abbia detto sulla questione della legge elettorale: basta cincischiare. Adesso non so bene che cosa abbia in mente per modificare, cioè, ma questo verbo di cincischiare è simpatico comunque, no? Sì, ecco, eccomi qua. Sì, cincischiare è un verbo molto espressivo e anche simpatico, e quindi in questo caso Quagliarello, chi per lui, ha usato un verbo che andava decisamente bene. Per ricostruirne brevemente la storia, cincischiare deriva, come al solito, da una forma latina che era incisulare e voleva dire tagliare. Allora cosa c'entra tagliare col senso che abbiamo, che diamo oggi a cincischiare? Beh, c'entrava perché incisulare veniva da incisus, che significa tagliato, e quindi i primi significati del verbo nella lingua italiana già nel 400 erano quelli di tagliuzzare male, come si fa con ferri male arrotati. Da qui si è passati a un significato di sgualcire, poi si è passati ancora al significato di pronunciare male le parole, smozzicarle, in fondo tagliarle, e infine quello che è il senso oggi più comune, più diffuso, ed è quello usato da, credo, da Quagliarello, cioè quello di perdere tempo senza concludere nulla. Quindi torniamo al significato originario, in fondo tagliare il tempo, buttarlo via. Ecco, e questo era il senso di un verbo che invito tutti a usare perché rende bene l'idea. Molto bene l'idea, grazie Valeria Della Valle. Anche grazie tu, a voi, arrivederci. Anche tu hai reso bene l'idea. Adesso sentirei molto sinteticamente, sentite, comincio a correre, Marco dalla provincia di Brescia. Marco, molto sintetico, sì? Allora ci provo. Sì. Intanto vi saluto e faccio i complimenti a Mario Giordano. Benissimo. Idem come il, sì, di sopra, delle spettature, sì, di prima. Sì. Niente, una domanda. A mio avviso l'obiezione fiscale all'inglese è la massima espressione, esempio di democrazia applicata dal popolo inglese, uno strumento vero ed efficace nelle mani dei cittadini, più ancora del voto con la preferenza, che mi significa non pagare le tasse, anzi, al contrario, temperare puntualmente ai propri doveri verso la comunità, ma di avere la libertà di dissentire, no, su determinate decisioni. Però lì, Marco, forse lì sono meno evasori, meno furbetti, eccetera, eccetera, quindi non si può prendere solo un pezzo di una cosa, importarlo e poi il resto che rimanga uguale. Marco, ti ringrazio. A questo punto si corre abbastanza velocemente. Ti voglio chiedere proprio in un flash, Mario Giordano, il fatto che nel corteo della Fiamma ci sia Movimento 5 Stelle ma non ci sia il PD, è un cambiamento anche questo di stagione, non ci sono più le mezze stagioni? Proprio una frase. Non ci sono più le mezze stagioni, se mai hai scelto veramente la frase giusta per la tua trasmissione di questo periodo. Sì, è un segno importante. Importante questa assenza del PD, fra l'altro nel PD guidato da un segretario della CGIL, secondo me oggi è una cosa su cui bisogna riflettere e su cui ci sarà molto da discutere. Ecco, l'ultima cosa, avevo promesso che parlavo di pensione, uno studio che viene dalla Gran Bretagna afferma, uno studio fatto sulla pensione, che la pensione fa male alla salute e quando si va in pensione ci sono molti effetti negativi, proprio a domino, salute fisica e mentale, un declino drastico della salute, e il titolo si chiama Lavora più a lungo, vivi più sano, più si sta in pensione, questa è la conclusione, più ci si ammala, sono le conclusioni di questo studio inglese. Poi si va a scoprire che stanno cercando di innalzare l'età pensionabile in Gran Bretagna. Vuoi dire che pian piano anche da noi questo studio arriverà anche in Italia? Se l'aveva fatto la Forneo. È possibile, essere maligni a volte, vero, un pochino. Però ecco, quando sentivo prima l'operaio che parlava, mi viene in mente che noi abbiamo ancora un parlamentare che continua tutti i mesi a prendere 3.108 euro di pensione per essere stato in Parlamento un giorno, e quella pensione viene considerata un diritto acquisito mentre si toccano gli altri diritti. Ecco, quando e non è il solo. Mario, ci dobbiamo salutare, perdonami, Mario Giordano, ricordiamo il tuo libro Tutti a casa, grazie da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.